Sono un moralista, sono un nichilista, cambio d'abito sovente, un trasformista, poco disfattista, ottimo ottimista, il soggetto più prezioso e prediletto di qualsiasi terapista, un illusionista, esibizionista, in dalmatica liturgica esorcista, preso alla sprovvista da protagonista, una stella che ha paura di brillare nella morsa di una svista. Cerco ancora la strada di casa sotto un sole che ride, una pioggia che piange, una brezza che tira, per tornare a provare a cercarmi davvero, per nascondere l'ira. Cerco ancora la strada di casa tra un ricordo che arriva, la speranza che parte, la rotta che vira. Se per caso mi manchi davvero, ti prego di provare per sempre comunque a cercare la mira, a cercare la mira. Sono un alchimista, nato batterista, che comunica col pop, ma è un jazzista. Fred Astaire in pista, Messner sulla cresta, che ha operato a cuore aperto il suono inverso senza aver l'anestesista. Cerco ancora la strada di casa sotto un sole che ride, una pioggia che piange, una brezza che tira, per tornare a provare a cercarmi davvero, per nascondere l'ira. Cerco ancora la strada di casa tra un ricordo che arriva, la speranza che parte, la rotta che vira. Se per caso mi manchi davvero, ti prego di provare per sempre comunque a cercare la mira, di provare per sempre comunque a cercare la mira, a cercare la mira.